Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, spero che abbiate passato un buon Natale. Queste giornate possono essere giornate adatte alla lettura, forse giornate meno convulse, forse anche di vacanze, quindi vi segnalo due romanzi italiani per cominciare. Il primo è di un giovane scrittore pugliese, Nicola La Gioia, si intitola Riportando tutti a casa, è pubblicato da Einaudi, 292 pagine, 20 euro. Con questo libro lo scrittore ci riporta agli anni della sua prima giovinezza, in una Puglia agli albori di quello che poi avremmo chiamato l'edonismo reganiano. Siamo proprio in quegli anni, negli anni in cui esplode la voglia, la ricerca ansiosa di ricchezza, un'ansiosa ricerca che dà vita quasi a un'autentica trasformazione antropologica, dominata appunto da una specie di animalesca voglia di fare soldi, anche a costo di distruggere una cultura che spesso era legata ancora a tradizioni secolari, e anche da uno scivolamento delle giovani generazioni verso un nulla che viene alimentato solo dalla droga. L'affresco di La Gioia è efficace, a volte ironico, sempre impietoso, non distaccato, ma anzi partecipe di questo spappolamento di un mondo e delle occasioni perdute dei giovanissimi di allora, artefice e testimone di un'Italia nella quale, scrive, il bello diventato insulto, l'eccesso di vitalità che trascolora nel delirio di impotenza, l'arroganza spumeggiante del benessere che imbocca la strada della frustrazione, dominavano. Quindi il libro si rivela come una testimonianza di questa lebbra, anche alimentata e quasi simboleggiata dalla lebbra edilizia che in quegli anni divorò il nostro paese. Ma sentiamo l'autore. Buongiorno a Nicola La Gioia. Buongiorno. Nicola La Gioia, è quasi paradossale leggere in un momento di grande crisi economica questo libro, che viceversa è un'esplosione di arricchimento nel meridione, arricchimento impetuoso, smodato, amorale, avido, cinico, ma insomma comunque la gente qui diventa tutta ricca e sta molto bene. Ma cosa rimane di questo arricchimento improvviso, di questo pezzo della società pugliese? Beh, 20 anni dopo rimane poco. Sì, si parla di arricchimento perché il romanzo è ambientato durante gli anni 80 e insomma è il decennio in cui abbiamo sperimentato forse il nostro secondo, però insomma più effimero rispetto a quello degli anni 60, boom economico. Erano i tempi appunto dell'edonismo reganiano, della Reaganomics, della Milano da bere, ma anche della Bari appunto da bere, perché Bari era soprannominata all'epoca la Milano del Sud, proprio perché era una città molto opulenta, ricca. Da bere e da sniffare, no? Da sniffare non ancora, perché quella era l'epoca degli erenomani, quindi in realtà Bari da bucare, più che altro, perché sì, infatti in 20 anni, a proposito di cambiamenti, sono cambiate anche le droghe, che cioè, all'epoca io mi ricordo Bari era piena, è vero che era una città molto ricca come dicevo prima, ma era anche una città spaccata in due, perché c'erano poi tutta una serie di quartieri popolari, c'era Iapigia, che era una sorta di Scampia ante litteram, ed era un bazar proprio di vendita di eroina a cielo aperto. Sono cambiate anche le droghe, insomma, che erano degli scandali viventi gli eroinomani dell'epoca. Adesso la droga è diventata invece, che è appunto non più l'eroina ma la cocaina, è diventato quasi un elemento di uno strumento di integrazione, basti pensare appunto al caso Tarantini. Invece l'integrazione allora era il denaro, perché qui si parla di, per esempio, di due famiglie, una della micro borghesia e una dell'alta borghesia, che alla fine si incroceranno, si intrecceranno, si incontreranno proprio perché sono unificati dal denaro, perché anche i più poveri sono diventati molto ricchi. Sì, sì, era in realtà, ma questa cosa che dico per la borghesia barese credo che valga anche per la borghesia italiana, cioè il fatto che non era una vera borghesia, questo è il problema un po' del nostro paese, cioè quello di non aver mai avuto una vera borghesia, e quindi si trattava di arricchimenti molto rapidi, in famiglie che però non avevano proprio culturalmente le spalle abbastanza larghe da riuscire a sostenere in maniera equilibrata questo arricchimento improvviso, tant'è vero che per esempio il padre di uno dei protagonisti del romanzo si fa costruire in questa villa già pacchiana, kitsch, piena di scombri di gesso, anche un parcheggio semovibile, che non serve a niente, cioè un parcheggio che praticamente sorge dalle profondità del sottosuolo, e dentro appunto ci stanno una Ferrari testa rossa, anzi no, una Lamborghini Countach, che era l'altra macchina diciamo sportiva che andava forte, una BMW e poi un'utilitaria, quindi grande spreco di denaro oltre che a grande accumulazione, e quindi così come era facile in qualche modo per la congiuntura favorevole o pseudo tale guadagnarlo, era anche facilissimo perderlo, infatti poi alcuni di queste famiglie di cui parlavamo, poi finiscono appunto malissimo perché perdono tutto. Ecco, a proposito del clima di allora, lei parlava poco fa di edonismo reaganiano, spiega un po' anche il ruolo che ha svolto la televisione in quegli anni, certe trasmissioni, e poi conclude questo lungo percorso attraverso quegli anni dicendo: la risata che ci avrebbe dovuti seppellire tutti quanti era arrivata. Sì, c'è una specie di sovversione, no? dello slogan del 77, era quello lì, no? Una risata vi seppellirà. In realtà la risata che ci avrebbe seppellito era una risata reazionaria, era quella appunto del drive-in. Negli anni 80 in Italia arrivano le televisioni commerciali, arriva appunto il drive-in, che fu davvero una rivoluzione da quel punto di vista, fatta tra l'altro da un ex 68ino, perché Antonio Ricci era un ex 68ino, e in realtà anche il fatto che lui dice: io me la prendo un po' con il drive-in, che poi sarebbe diventato Striscia la Notizia, perché quello che dice Ricci di andare contro il potere in realtà è una foglia di fico, perché nel momento in cui tu parli lo stesso linguaggio del tuo presunto avversario, sei già il tuo avversario. E appunto il drive-in sovvertiva proprio l'umorismo era, no, come anche Pirandello lo diceva, la comicità è il sentimento del contrario, lì diventava la comicità il sentimento dell'identico, cioè parlava la stessa lingua del potere che avrebbe dovuto mettere, che avrebbe dovuto denudare. E quindi sì, le televisioni commerciali hanno, che anche lì non eravamo pronti anche culturalmente a quello shock proprio estetico, e tant'è vero che poi ci hanno in qualche modo, hanno completamente cambiato l'immaginario degli italiani. Quando lei arriva agli anni nostri, a un certo punto descrive quello che è il cambiamento, scrive che ha riscontrato non soltanto in Puglia ma in altre zone d'Italia, cioè, cito dal suo libro, il bello diventato insulto, l'eccesso di vitalità che trascolora nel delirio di impotenza, l'arroganza spumeggiante del benessere che imbocca la strada della frustrazione. Ecco, questa è la descrizione dell'Italia di oggi, a suo parere? Eh sì, perché anche qui il problema di molti italiani è che in un periodo di crisi, andare in crisi dal punto di vista invece psicologico, perché non ci si può più permettere la vacanza appunto, che in posti esotici, tutto all inclusive, che ci si poteva permettere prima, cioè, anziché stringere la cinghia, ho paura che noi appunto ci stiamo abbandonando un pochettino, o comunque anziché stringere la cinghia provare a ripartire, sembra che ci stiamo un pochettino abbandonando a una specie da isteria, da impossibilitato consumo, che era quello che invece facevamo prima. Sì, beh, è indubbio che abbiamo fatto qualche passo indietro. Vabbè, poi la crisi non riguarda soltanto l'Italia, questo è vero, però non so, soltanto, non è poi soltanto una questione economica. Io sono rimasto colpitissimo per esempio dal fatto che nell'elenco delle 100 università più importanti, più influenti e migliori del mondo non ci fosse più una università italiana, eppure la Cattolica, la Bocconi 20 anni fa comparivano almeno nella top 100, e allora io il pericolo che avverto è quello che l'Italia stia, non dico scivolando verso i paesi del secondo mondo, ma stia diventando, o rischi di diventare, un paese della seconda fascia del primo mondo. Allora questo è un cambiamento, però non guardare in faccia appunto questa realtà, secondo me, significa anche non affrontarla. E anche nel suo libro le scelte educative che riguardano i ragazzi, i protagonisti del libro, sono più improntate a delle scelte da status symbol che non di investimento sul futuro. Sì, ma infatti era anche l'epoca quella in cui ti convincevano non soltanto che il denaro era fondamentale, è ovviamente importante il denaro, ma che come dire, non avere successo significa necessariamente, quasi per un sillogismo, poi essere dei falliti. Quello è il tipo di ideologia con cui purtroppo siamo cresciuti, non siamo cresciuti, come dire, in un bel tempo. È anche vero però contemporaneamente che c'erano pure dei vantaggi, perché poi non è che dobbiamo sputare in toto sugli anni 80. Qualche tempo fa sono andato a presentare il libro ad un liceo, quindi per me era interessante vedere come gli adolescenti di oggi guardassero agli adolescenti di allora, almeno quelli che escono, che vengono fuori dal mio romanzo, e dicevano che avevano però osservato, seguito, letto delle avventure di questi ragazzi come se fossero degli alieni, perché hanno detto: questi qui se ne vanno in giro per la città con i motorini, vanno nei quartieri malfamati, hanno, cioè, mi dicevano, una libertà che loro non riescono ad avere. E io gli ho chiesto: ma come mai? E tutti quanti rispondevano: perché noi finiamo di andare a scuola, poi abbiamo al massimo forse il tempo prolungato, poi dobbiamo andare in inglese, poi dobbiamo andare a danza, poi ci sono i cellulari tramite i quali siamo sempre rintracciabili dei nostri genitori, e quindi io mi ricordo che l'adolescente che sono stato invece godeva molto nel fatto di poter scomparire per ore e ore e farsi appunto inghiottire dal ventre della città, che poi era una città, ripeto appunto, Bari, che è come le migliori città dal punto di vista letterario, davvero da Dickens a Baudelaire in giù, ti consentiva di fare esperienza. Grazie a Nicola La Gioia, autore di Riportando tutto a casa. Buona domenica. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci. L'altra scrittrice invece è sarda e di Cabras, si chiama Michela Murgia, è praticamente coetanea di La Gioia e il libro che ha scritto si chiama Accabbadore, pubblicato da Einaudi, 166 pagine, 18 euro. Questo è un libro che mi è stato segnalato da un libraio, ha fatto bene perché l'ho trovato interessante, infatti è una prova molto convincente, ambientata in una Sardegna degli anni 50, ancora immersa in ritmi, tradizioni e riti del passato, a partire da quello di affidare una figlia di troppo a una vecchia signora che la possa mantenere ed educare. Questo capita alla protagonista del libro, la quale scoprirà in Bonaria, la vecchia appunto alla quale è stata affidata, una figura misteriosa e per certi versi drammatica, in una sequenza di colpi di scena che danno particolarmente vigore alla storia del libro. Assieme a quella di La Gioia, anche questa di Murgia è una bella prova della nuova narrativa italiana, quindi capace di allontanarsi dai cliché, di raccontare storie costruite bene, di affrontare, come in questa di Murgia, temi che ci accompagnano fino ai nostri giorni, come scoprirete leggendo il libro, non vi dico quale, per non guastarvi la sorpresa. Sentite queste righe dal libro di Michela Murgia su un certo aspetto del clima culturale nel quale matura la storia di Maria, che è la protagonista, la quale poi a un certo punto abbandonerà anche la Sardegna per una sfortunata esperienza di lavoro a Torino, salvo poi rientrare nell'isola e immergersi nel ricordo di questa storia di giovinezza. Ci sono cose che si fanno e cose che non si fanno, e Maria la differenza la conosceva benissimo. Non era questione di giusto o sbagliato, perché nel mondo in cui era cresciuta quelle categorie non trovavano posto. A Soreni la parola giustizia aveva lo stesso spazio di senso delle peggiori maledizioni e veniva pronunciata solo quando c'erano da evocare cieche persecuzioni contro qualcuno. Per la gente di Soreni la giustizia ti avrebbe forse potuto rincorrere e se ti avesse preso ti avrebbe scorticato come un maiale o crocifisso come un Cristo, ti avrebbe fottuto per gioco come fanno gli uomini quando si comportano come le bestie, ti avrebbe stanato ovunque ti fossi nascosto e di sicuro non avrebbe dimenticato mai il tuo nome, né quello di chi era uscito da te. Ma tutto questo non c'entrava nulla con il fatto che ci sono cose che si fanno e cose che non si fanno. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, vi propongo adesso tre autori italiani da riprendere. Ve li propongo in ordine cronologico. Il primo è Romano Bilenchi, di cui quest'anno che si chiude abbiamo ricordato il centenario della nascita e i 20 anni della morte. Di lui escono le opere complete presso la Bur, Rizzoli, 1258 pagine, 26,50 euro. Bilenchi, toscano, non fu soltanto scrittore, ma un intellettuale molto impegnato, con un rapporto contrastato col PC, nel quale entrò e uscì per poi rientrare. Fu giornalista, direttore di giornali e autore naturalmente di alcuni romanzi importanti del Novecento italiano, Il Capofabbrica, Il Bottone di Stalingrado, Amici. Perché rileggere questo autore? La curatrice di questo libro, Benedetta Centovalli, ce ne offre quattro ragioni. La prima ragione è perché Bilenchi, scrive la Centovalli, inventa l'infanzia, cioè per la costante scelta di mettere come protagonisti dei suoi libri degli adolescenti. La seconda ragione è perché Bilenchi ci offre una cartografia dell'Italia, scrive Centovalli, il paesaggio italiano centrale in tutta la sua narrativa, paesaggio che ci viene incontro come un vero e proprio personaggio, geografia di un paese che a stento sopravvive su e giù per lo stivale ma che ancora resiste in alcune regioni. La terza ragione è che nei racconti di Bilenchi, leggo sempre dall'introduzione, si fa esercizio di libertà, si allena la nostra capacità di essere e mantenersi liberi e ieri come oggi non è cosa da poco. E infine per la lingua di Bilenchi del tutto particolare. Il secondo scrittore che vi propongo è un scrittore anche lui di origine toscana, romano di nascita e milanese di adozione, che visse tra il 1924 e il 2002, Ottiero Ottieri. Di lui esce un volume dei Meridiani, le opere scelte, 1810 pagine, 55 euro. Ottieri è uno scrittore complesso, dal percorso molto ricco, fatto di scrittura naturalmente, anche teatrale e poetica, ma anche di impegno intellettuale, di vita in azienda presso l'Olivetti, di lunghi periodi depressivi, tentazioni alcoliche, e cicli di terapie, ma anche di intensi periodi mondani. Della fase più difficile testimonia il libro Seri, che è del 1999. Uno dei più interessanti libri di Ottieri è Donnarumma l'assalto del 1959, che affronta la trasformazione di un'Italia che diventa industriale e vive uno sconvolgimento sociale, economico, culturale, sintetizzato appunto nelle vicende del disoccupato che aspira a lavorare nella grande impresa del Nord. E il libro è anche una fotografia spietata dei metodi che le aziende cominciavano a introdurre nel clima italiano, mutuandoli dal modello americano. Sentite per esempio queste righe sui criteri di selezione del personale. È entrato l'analfabeta. Con le mani grosse da anziano manovale, afferrati i pezzi sparsi del Möde con brutalità, stava subito per romperci il cordino di trasmissione. «Stia attento!» gli grida la signorina S., e a me dice forte: «Se me lo rompe, dove pesco un altro cordino per il Möde?» L'analfabeta si ferma un momento, stacca le mani pesanti dal nostro giochetto e alza il viso butterato, gli occhi tondi. Si riapplica a testa bassa, tirando il cordino molto delicatamente, seguendo i consigli della S, e infila due ingranaggi nei perni giusti. Dagli occhi, grossi come le mani, gli è uscita finalmente una luce di soddisfazione, d'astuzia, tanto che ha proseguito baldanzosamente. Dopo gli ingranaggi monta gli altri pezzi di sua fantasia, a rovescio, in mezzo al nostro attonito silenzio e al logorio del cronometro. Arriva alla fine. Avendo collocato tutti i pezzi, gli pare la conferma che la prova è riuscita. «Avanti!» dice la signorina. «Ora lo faccia funzionare!» Egli ci guardava come per chiedere se andasse bene. «Ma avanti!» risponde la signorina, in impenetrabile attesa. Girando una piccola ruota, se il Möde è montato giusto, si deve muovere alternatamente una leva a martelletto che batte sul piano di legno dell'apparecchio. È un allegro rumore, un segno di vittoria. Egli ha manovrato la ruota. Invano. La leva era bloccata perché egli aveva montato tutto, ma a rovescio. Spinge più forte la ruota, ma le trasmissioni si erano completamente bloccate. Spinge ancora, con forza. «Alt, si fermi, non lo sforzi!» grida la signorina. «Me lo spacca!» Ha allontanato l'apparecchio da sé, buio, greve. «Ma io sono un uomo di fatica. Mettetemi alla prova... non con questo qui. Io vi alzo un quintale. Io non ho paura di niente, che credete? Mettetemi nell'officina, che vi faccio qualsiasi lavoro. Che cos'è questo qui?» L'ultimo grande autore italiano che vi invito a riscoprire è Luigi Malerba, vissuto tra il 1927 e il 2008, un autore prolifico e popolare, di cui Mondadori pubblica Diario delle delusioni, 280 pagine, 18,50 €. Questi sono tanti appunti o spunti per brevi riflessioni ispirate alla letteratura, alla storia, alla cronaca, che appunto danno l'opportunità a Malerba di mettersi a nudo e di farsi conoscere meglio nella sua curiosità e nella sua grande cultura, e anche nella capacità di coinvolgere il lettore con riflessioni originali e stimolanti. Per esempio, vi offro questa riflessione che chiude il libro, che potrebbe valere anche come pensiero col quale iniziare il nuovo anno. Ho affermato più di una volta che la letteratura propone modelli di realtà. Intendo comprendere in questa affermazione non soltanto prospettive di autocoscienza individuale o collettiva, ma anche suggestioni nell'area dell'utopia. Progettare un mondo migliore o prospettare future catastrofi può essere ugualmente uno stimolo, se non altro ad allargare i nostri orizzonti, ad appuntare il nostro sguardo verso mete più lontane. Non sto parlando della fantascienza. Si possono progettare modelli di realtà anche parlando di Bisanzio o del Medioevo italiano. Con questo non penso che lo scrittore debba assumersi un ruolo di profeta o di demiurgo. Sarà già molto se riuscirà a inoculare nel lettore il bacillo di qualche ansia supplementare riguardo al futuro della civiltà e a distoglierlo dagli interessi immediati, da quel pensare corto che tanti effetti deleteri ha prodotto nella società, nella famiglia, nelle istituzioni dominate dalla mediocrità dei mezzi e dei fini. Non si tratta dunque di distrarre i lettori, di aiutarli a dimenticare, ma di aiutarli ad avere coscienza dei problemi che incombono sul destino dell'umanità. Ma questo può essere anche un tempo di viaggi, e quindi vi segnalo una letteratura che può rivelarsi sempre appassionante, come un titolo di Folco Quilici, di cui esce adesso Terre d'avventure, pubblicato da Mondadori, 326 pagine, 20 euro, e contempla i suoi viaggi in Amazzonia, Sahara, Kalahari, Lapponia, Congo e Melanesia. Il libro contiene anche alcune immagini dei viaggi di Quilici e poi un DVD è allegato che invece presenta molte altre fotografie del grande fotografo. Questo è un libro di avventure spesso imprevedibili, come quella del blocco dell'elicottero a bordo del quale si trova Quilici, che precipita in un giardino pubblico addirittura del Veneto. Lui, abituato a visitare e a rischiare magari la vita in tante zone misteriose del pianeta, rischia poi di morire in Veneto in un giardino pubblico. Ma ci sono naturalmente tanti altri rischi, tante altre avventure descritte in tutte le parti del mondo. Non c'è soltanto il fascino esotico di aree lontane, ma le avventure di un esploratore come Quilici, che è un grande fotografo ma anche un ottimo scrittore, come testimoniano queste righe che vi propongo, tratte dal capitolo sulle città perdute. Avevo sempre sperato nei miei lavori sul tempo passato di trovarmi in questa terra, l'antica Arabia Felix, e di cogliere immagini di un mondo vissuto e prosperato grazie a ricche sorgenti di non lontane montagne, acque raccolte e trasportate con capillari sistemi di canalizzazione. Sabbia e polvere coprono tutto, da tempo, ed è a pezzi l'opera principale per sbarrare il corso del Wadi Dana, presso Marib. Le sue macerie testimoniano l'impegno dei Sabei per la raccolta, conservazione e distribuzione delle acque in tutta la regione. Ai resti di quella diga, la più grande costruita nell'antichità, accompagnò il nostro gruppo armato di cineprese e macchine fotografiche uno yemenita di nome Taleb, armato di tutt'altro strumento, per evitare sequestri frequenti, come s'era affrettato a spiegare mentre noi ci auguravamo di non vederlo mai utilizzare quell'automatica brandeggiata con troppa disinvoltura. Di lui non tardammo ad ammirare, a parte la continua esibizione del Kalashnikov, come sapeva orientarsi nel vuoto del deserto. E come seppe guidarci tra i resti d'uno dei bastioni di Marib, con una scalata tra massi crollati e altri ancora perfettamente incastrati gli uni negli altri. Raggiunta la sommità, capimmo che solo di lassù era possibile avere un'idea dell'ampiezza di quella diga, osservare in un solo colpo d'occhio il chilometro disteso tra un bastione e l'altro, il che spiegava come vi si potesse raccogliere ed erogare acqua in abbondanza, e così creare tanta prosperità. L'impianto ciclopico è sorto quasi 3.000 anni fa ed è stato capace di resistere 14 secoli, sin quando i sedimenti deposti dal fiume ostruiscono le chiuse, impedendo all'acqua di fluire correttamente. Ogni energia, da creatrice, può in un attimo mutarsi in distruttrice, sentenziò Taleb. Di questo non ci curiamo noi, figuriamoci quei miscredenti dei Sabei. Intuirono l'inevitabilità del disastro, ma non furono in grado di impedire il crollo. E la catastrofe provocata dal cedimento della diga significò per la regione passare dalla vita alla morte e ispirò forse la leggenda del diluvio universale. L'anno che si chiude è stato l'anno del futurismo. Voglio ricordare in questa circostanza una protagonista meno nota forse, ma non meno importante di tanti altri molto ricordati in questi ultimi 12 mesi del futurismo, che fu la moglie di uno dei suoi fondatori, cioè di Marinetti. Benedetta K. Marinetti fu una valente pittrice, a lei dedicato il libro di Franca Zoccoli, Benedetta K. Marinetti, L'incantesimo della luce, pubblicato da Selene Edizione, 110 pagine, 13,50 euro. Il libro compare in una serie dedicata alle donne pittrici, nella quale non poteva certo mancare Benedetta K, che, come scrive l'autrice, non fu solo pittrice ma artista totale nel senso futurista della parola, con un'attività ad ampio raggio che si estendeva dal campo della letteratura alla scenografia, dal disegno alle sperimentazioni verbovisuali delle tavole parolibere. Come pittrice, la Marinetti è nota per le grandi tele sui temi delle comunicazioni che dipinse per il Palazzo delle Poste di Palermo nel 1934. La K. Marinetti fu anche sensibile al tema dell'emancipazione femminile, in una chiave originale che non ne fa certo una femminista ante litteram, ma che puntava a far emergere la specificità della donna e che nella sua visione, come spiega l'autrice, avrebbe contribuito a ridurre l'aggressività, a limitare le ambizioni stritolanti, a contribuire a far prevalere lo spirito sulla materia. E a questo punto... Il confettino. Vi segnalo un classico di Gianni Rodari, Tonino l'Invisibile, M edizioni, 13,50 euro, con le immagini di Alessandro Sanna. Questa è una storia tra l'assurdo e il metafisico, di un bambino che riesce a rendersi invisibile, e questo dono lo porterà, prima dell'ovvio happy end, a riscoprire anche la condizione di invisibili, di tanti invisibili particolari, e una vera e propria lezione di vita. E con questo concludiamo questa trasmissione e quest'anno. Vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon anno assieme a Vittoria Mussini dalla redazione e a Valeria Bernardi dalla regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it. Vi do appuntamento la settimana prossima e ancora una volta auguri di buon anno.